368 tordi disossati in gelatina. Per 6 tordi prendete magro di vitella di latte grammi 100, lingua salata grammi 40, prosciutto grasso e magro grammi 30, una palla di tartufi neri di circa grammi 30, lasciate da parte la metà della lingua e un terzo del prosciutto, più grasso che magro, e la carne suddetta, col resto della lingua e del prosciutto, tritateli e pestateli nel mortaio insieme con la corteccia del tartufo, rammorbidendo il composto con un gocciolo di marsala. Poi passatelo dall'ostaccio ed uniteci un rosso d'uovo. Disossate i tordi come fareste pel pollo ripieno, numero 258, e lasciate ad essi il collo e la testa attaccati. Poi riempiteli col composto descritto, nel quale avrete già mescolato il tartufo, la lingua e il prosciutto messi da parte, il tutto tagliato a dadini. Ora cuciteli in modo da poter levare il filo quando saranno cotti e per cuocerli avvolgete ciascun tordo in un pezzo di velo e fateli bollire per un'ora nel brodo della gelatina numero 3. Serviteli per rifreddo sopra alla gelatina medesima e se con questa formate 6 stampini grandi a modo di nido, sembrerà che il tordo vi stia sopra a covare. Riesce un piatto fine e delicato.